Original concept of your sound. Semplificazione di sonorità elettronicamente instabile. Electro DJ Rotation Ultrasound. È un'esclusiva by Stefano Calonico e Atti DJ. Sinceramente mi siete mancati tanto, non vedevo l'ora di tornare in vostra compagnia di nuovo su Ultrasound. Non oso immaginare quanto avete mangiato durante queste feste natalizie e hanno mangiato tanto anche i nostri DJ e registi. Stefano Calonico e Atti DJ, lo si vede anche dalle loro rotondità che sono aumentate ultimamente. Ma anche il sottoscritto Alessio Campanelli non si è tirato assolutamente indietro. Come al solito in questo nuovo appuntamento di Ultrasound faremo un viaggio all'insegna di frequenze e sonorità elettroniche. Vi ricordo anche quali sono i nostri contatti per poter interagire con noi e poterci conoscere meglio. www.myspace.com/minimalelectroformat e minimalelectroformat@email.com. Iniziamo ufficialmente con la prima traccia, Alan Villar con Reconnect. Questo pezzo era Alan Villar con Reconnect. Ricordo che per gli amici e DJ produttori che ci stanno ascoltando in questo momento e chissà magari volessero contribuire con i loro pezzi mixati proprio sulla scaletta di Ultrasound, possono inviarci le loro produzioni, le loro demo tramite il nostro indirizzo email. Una volta ascoltate valuteremo il tutto e chissà magari questa collaborazione sa da fare. Intanto arriva anche la seconda traccia, Shine No con Getaway. We'll be right back. disco un po' particolare, posizione numero 2, Shire No con Getaway. Siamo partiti alla grande, oggi è grande anche il DJ guest che non posso anticiparvi assolutamente, ma che avremo come ospite proprio questa settimana. Continuiamo con la prossima traccia, Marco Romboy. Dimenticavo che devo salutare assolutamente il gruppo pugliese per eccellenza, un gruppo di ragazzi che ci scrive spesso e volentieri, ci ha scritto anche questa settimana a Minimal Electro Format @email.com chiedendoci quando è che suoneremo live nella loro città, che è Bari in questo caso. Prossimamente magari potremmo arrivare proprio da quelle parti, un evento magari molto alternativo, chissà, io lascio il punto interrogativo. Intanto di sicuro arriva la prossima traccia con Marco Romboy, Sonora. Insieme su Ultrasound abbiamo ascoltato Marco Romboy con Sonora, la posizione numero 3, ed è proprio qui davanti ai miei occhi la scheda del nostro ospite settimanale, ovvero il DJ guest che ascolteremo nella seconda parte di Ultrasound, perché il DJ guest ha una parte dedicata solo ed esclusivamente a lui. Vedo Stefano Calonico e ATDJ che mi fanno cenno che la prossima traccia è pronta a partire, allora arriva Acoustic Pusher. We'll be right back. www.myspace.com/minimalelectroformat. E questo è l'indirizzo del nostro sito web. Lo ripeto ancora una volta per gli ascoltatori che si fossero sintonizzati solo ora. Siamo su Ultrasound, appuntamento settimanale che viaggia su BPM elettronici alla scoperta di nuove tendenze e sonorità. E adesso traccia numero 5, Polo Rich, Back to the Time. Lulu Reach Back to the Time, disco abbastanza forte questo, però devo dire la verità, non vedo l'ora di arrivare all'ultima traccia perché c'è il mio disco preferito, quello di questo periodo. Però siamo ancora alla traccia numero 6, allora andiamo a fare un breve riepilogo, perché alla traccia numero 1 c'era Alan Villar con Reconnect, alla numero 2 Shine No con Getaway, ed ancora traccia numero 3 Marco Romboy Sonora, alla numero 4 Autistic Pusher. A seguire, traccia uscente che sta per essere miscelata, era Paul Rich con Back to the Time, e adesso ci ascoltiamo Bini e Martini con la loro nuovissima Bang the Box. Posizione numero 6, Bini e Martini, la nuova dello storico gruppo che ribaltava le chart di mezzo mondo negli anni 90. Ed insieme ai nostri DJ Stefano Calonico e Atti DJ continuiamo e andiamo a scoprire la traccia numero 7. A grande richiesta anche per questa settimana abbiamo James Bond con Titir. Oh. Ed è la giornata di dischi con i titoli curiosi. Questa era la traccia numero 7, James Bond con Titer. Sento già la prossima traccia in battuta con la nuovissima hit per Alex Kenji e un trio tutto toscano, Gianluca Luisi, Sara Galli, e stiamo per ascoltare Do What You Like, versione remixata da Federico Molinari. myspace.com/minimalelectroformat, e questo è il sito attraverso il quale potete tenervi aggiornati ed effettuare il download gratuito degli appuntamenti di Ultrasound. Era la posizione numero 8 con Do What You Like. Il viaggio sonoro sta per volgere, ahimè, al termine, ma mancano ancora un pochino di dischi da suonare. Per gli amici sintonizzati da poco, ricordo che siete su Ultrasound con Alessio Campanelli alla voce, Stefano Calonico e Atti DJ regia. E allora andiamo con la traccia numero 9, arriva lui, Shirem Rhythms, Insurance. Gigante, ma abbastanza sfizioso, Insurance. E intanto qui continuano ad arrivare messaggi sulla DJ Guest della settimana. Io vi posso dire solo che è tedesco e il 17 gennaio sarà ospite al Sub Club. Intanto ricordo anche i nostri contatti, www.myspace.com/minimalelectroformat, e il nostro indirizzo email minimalelectroformat@email.com. proseguiamo andando avanti con l'ascoltare la prossima traccia, numero 10, uno dei più importanti produttori dance della scena mondiale di tutti i tempi, Mr. Mario Più, cantata da Sofa Beck. Grande Mario Più era la posizione numero 10. Noto che il pubblico che ci sta ascoltando da casa partecipa veramente alla grande. Questo non fa altro che incrementare anche la nostra voglia di poter interagire con voi tramite ultrasound, tramite le sonorità elettroniche. Intanto arriva anche la prossima traccia, la numero 11, Abnormal Boys con Overlook. Scusate se sono un pochino affannato, ma una delle mie prime volte è stata proprio oggi, ovvero poter andare dall'altra parte del vetro e vedere che sensazione si possa provare stare al fianco dei nostri tecnici, Stefano Calonico e ATDJ. Continuiamo, ci avviciniamo sempre di più al capolinea di questo nuovo appuntamento di Ultrasound. Adesso arriva la traccia numero 12 con Michael Lewis e Hiato. traccia numero 12 era Michael Lewis e inizio fortunatamente ad intravedere il mio disco preferito. Nello stesso tempo vedo anche tra una pagina e l'altra di internet quali sono le nuove release di questo inizio anno. A proposito di inizio anno, volevo rinnovare ancora una volta gli auguri a tutti voi che ci state ascoltando, augurandovi tanta tanta felicità proprio per l'inizio del nuovo anno. Intanto arriva la terz'ultima posizione, sicuramente chi se ne intende dalle prime battute capirà che il disco sta suonando, a me tocca annunciarlo con estremo piacere. Traccia numero 13, Audio Fly X 1999. Ragazzi, penultima traccia, ci lasciamo alle spalle Audio Fly e sta per arrivare, lasciatemelo dire, veramente un ottimo lavoro del Partenopeo MIDI. L'atmosfera si fa più tecnicida, se si può dire in questo modo. Tutto questo perché voglio presentarvi uno prodotto davvero rave party. Alla posizione numero 14, tenetevi forte ragazzi, si viaggia perché arriva MIDI con Particle of Good. Particle of Good, finalmente non ce la facevo più. Volevo arrivare a tutti i costi all'ultima traccia della nostra scaletta. Dall'altra parte del vetro ci sono i nostri due DJ che mi fanno gesti come per dire: ma te sei matto? Sì, io sono proprio matto. La numero 15, loro sono Speedy J, Chris Liebing e Collapse con Maggie. Siamo arrivati alla conclusione di questo intenso appuntamento di Ultrasound. Oggi mi sono divertito veramente alla grande. Volevo salutare i miei due cari amici Stefano Calonico e ATDJ, che ogni settimana ci fanno ascoltare davvero gran bella musica miscelata e selezionata sempre da loro. Vi ricordo anche il nostro indirizzo myspace.com/minimalelectroformat, dove potete effettuare il download degli appuntamenti di Ultrasound. E non solo, potete anche messaggiare con noi. Adesso arriva purtroppo il momento di lasciarvi per un attimo, perché torniamo subito con la seconda parte dell'appuntamento di Ultrasound. Come detto prima, lui arriva dalla Germania, è molto conosciuto a livello internazionale e per chi non lo avesse capito, sto parlando di Tom Craft. Ringrazio ancora una volta tutti voi che ci seguite, da Alessio Campanelli, Stefano Calonico e Atti DJ per questa prima ora di appuntamento con Ultrasound è tutto. Mi raccomando, rimanete con noi a tra poco con la seconda parte e il nostro DJ guest della settimana. Siamo ufficialmente entrati nella seconda parte ed è giunto il momento, ragazzi, di andare a scoprire il DJ guest della settimana. Nella prima parte ci siamo gustati davvero dei pezzi straordinari grazie a quei bravi ragazzi che sono Stefano Calonico e Atti DJ, i nostri due tecnici, e grazie anche a voi che ci scrivete da casa chiedendoci di inserire in scaletta i pezzi che ballate in discoteca. Ricordo anche che per i produttori lo staff del MEF dà la possibilità di proporre i lavori inviandoci i vostri promo tramite il nostro indirizzo, che minimalelectroformat@email.com. E che dire, sta per arrivare lui. Immergiamoci insieme in questa seconda parte di Ultrasound. Signori e signore, bambini e bambine, sono lieto di presentarvi alla console virtuale di Ultrasound in esclusiva il grande Tom Craft. Ultrasound. console digitale di Ultrasound, special guest Tom Craft. Ultrasound. We'll be right back. Sound. Questa settimana girano i dischi di Tom Kraft. Thank you. console digitale di Ultrasound, special guest Tom Craft. We'll be right back. Sound, questa settimana girano i dischi di Tom Kraft. sulla console digitale di Ultrasound, special guest Tom Kraft. Ultrasound. su Ultrasound. Questa settimana girano i dischi di Tom Kraft. We'll be right back. sulla console digitale di Ultrasound, special guest Tom Kraft. Lui era il grande Tom Craft, ospite con un DJ set esclusivo. Questa settimana faccio i miei personali complimenti a questo artista di spicco internazionale. E noi ragazzi, purtroppo, ci dobbiamo salutare. Prima di chiudere, ricordo ancora una volta quali sono i nostri contatti: www.myspace.com/minimalelectroformat e la nostra email minimalelectroformat@email.com. Io vi ringrazio di essere stati con noi. Vorrei svelarvi il nome del DJ guest della prossima settimana, ma la regola è sempre quella: non si può assolutamente. Saluto i miei cari amici Stefano Calonico e Atti DJ. Io sono Alessio Campanelli e alla prossima settimana su Ultrasound.